Carissimi ragazzi e ragazze in ascolto, Ave Maria a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio, da Leonardo Maria Pompei per una nuova puntata di Spazio Giovani, scusate. E siamo giunti, con l'aiuto di Dio al termine, oggi rapidamente termineremo dell'escursus sull'ottavo comandamento, non dire falsa testimonianza. E già oggi, con l'aiuto del Signore, potremo cominciare a introdurre il penultimo comandamento che ci terrà impegnati per qualche altra puntata. Prima di chiudere il capitolo sull'ottavo comandamento, la volta scorsa abbiamo visto, ricordo sempre, come sempre, le ultime nostre conversazioni dell'ultima puntata. Dicevo, la volta scorsa abbiamo visto l'ultima parte della tematica riguardante la maldicenza, alla luce anche di alcune interessantissime considerazioni tratte dall'omelia sulla maldicenza del Santo Curato d'Ars. Oggi mancano alcuni casi, diciamo, ulteriori, particolari, di cattivo uso della parola, di uso falso, quindi della parola e quindi di mancanza della virtù della veracità, che rapidamente elenco, che sono l'adulazione, la millanteria e la violazione dei segreti, e di cui appunto rapidamente andremo a parlare. L'adulazione è un bruttissimo vizio, un bruttissimo modus agendi, che consiste, come dice il nome stesso, nel rivolgere a qualcuno lodi immeritate, quindi ingiuste, quindi anche a chi non merita di essere lodato. E al fine, come dire, di piaggeria, quindi di carpire la benevolenza della persona adulata per trarne generalmente qualche profitto. Ecco. È quell'atteggiamento proprio davvero misero e disdicevole che comunemente parlando viene espresso con un termine che rasenta il volgare, per cui preferirei evitare di ripeterlo, ma diciamo che in un dispregiativo che si può dire adoperato nel mondo politico è impersonificato dalla figura del cosiddetto portaborse, ecco, quindi di una persona che circonda generalmente un potente e assume degli atteggiamenti servili, quasi idolatrici. Ripeto, per entrare nelle grazie di questa persona e quindi per averne qualche interesse, insomma, tipo trovare lavoro, tipo averne qualche carica o qualche sia pur meschina e piccola considerazione. È un peccato contro l'ottavo comandamento perché consiste appunto nell'attribuire falsamente delle eccellenze e delle grandezze che la persona adulata non ha. Ecco, noi certamente dobbiamo sempre comportarci con molta carità nei confronti del prossimo, parlare possibilmente bene di tutti, ecco, ricordiamo quello che abbiamo detto nella puntata precedente, quindi la maldicenza non va fatta mai, la regola è che se si può parlare bene del prossimo, ok, altrimenti è meglio tacere, ecco, però anche nel parlare bene non possiamo mentire, come non si deve mentire nel parlare bene, dando luogo al peccato di calunnia, così, scusate, nel parlare male, così non si può mentire nel parlare bene, dando luogo all'adulazione, un vizio tra l'altro che rende particolarmente, ripeto, spregevole e meschino la persona che lo compie. Quindi si tratta dell'attribuire falsamente ad un'altra persona delle eccellenze e delle grandezze che non ha. Stiamo sempre alla larga da questa brutta tendenza che poi in effetti rappresenta spesso e volentieri un vero e proprio peccato aggiunto, potremmo dire, perché le persone adulate generalmente sono idolatrate, quindi si fa di un povero uomo, che è sempre un povero uomo, chiunque esso sia, fosse anche l'uomo più potente del mondo, ma è sempre un povero uomo. Lo si trasforma in una sorta di padre eterno in terra, e questo non deve essere fatto mai, e guardate ragazzi e ragazze, non deve essere fatto mai con nessuno, quindi quando anche noi dovessimo vedere qualcosa di buono in qualcuno, ecco, attribuiamo sempre a Dio il buono che è, che ha, e che fa. Io recentemente, non mi ricordo in quale domenica, ho postato tutta quanto un'omelia sulla umiltà autentica, che non è altro che la coscienza, come ci insegnano i santi, che noi siamo il nulla, e questa coscienza l'aveva anche la Madonna, più il peccato. E questa coscienza chiaramente la Madonna non l'aveva, se non lei si sentiva una peccatrice in potenza, ma non lo era in atto, per usare delle terminologie care alla filosofia scolastica. E questa è la verità di noi stessi. Ecco, io anche vi confesso, personalmente non amo molto e sentire parlare un po' troppo bene di me. Certamente sarei bugiardo se dicessi che sono contento quando sento parlare male di me, perché a tanta santità ancora non ci sono giunto e chi lo sa se ci giungerò mai. Però io ho sempre tanta paura, questo ve lo confesso via radio, che qualcuno si pensi, magari per quattro cose sensate che uno riesce a dire, di essere dinanzi a qualcuno o a qualche cosa, ecco, perché a me se non concesso che ci sia qualcosa di sensato che si riesce a dire, ecco, sappiatelo, anche coloro che sono in questo momento in ascolto, che bisogna soltanto ringraziare il nostro Signore, non c'è niente di mio e in questo, ecco, e quindi sempre sia tutto a lode e gloria dell'Altissimo, no? Quindi anche quando, non lo so, vediamo qualcosa di positivo in una persona, permettetemi di insegnarvi un piccolo segreto, ne possiamo dire: ringrazio il Signore per questi doni che ti ha fatto e che io riconosco in te, che vedo in te. Ecco, così possiamo da un lato, come dire, avere quella carità nei confronti del prossimo che consiste nel dare una piccola gratificazione quando è meritata, e dall'altro non mancare alla verità, adulando, e dall'altro non rischiare anche di far cadere la persona a cui rivolgiamo questo complimento, questa felicitazione, nel vizio orribile della superbia. Ecco, perché se dopo uno ci dovesse credere a qualche cosa che viene detto, potrebbe anche montarsi la testa, no? E montarsi la testa è cosa che è sempre molto molto facile, ma dobbiamo stare alla larga da ogni montamento di testa, come dalla peste bubbonica. Ecco perché non c'è niente di più in viso a Dio dei palloni gonfiati. Ecco, quindi stiamone sempre tutti alla larga. Oh, c'è un'altra faccia della medaglia, no? Perché a volte non ci sono, uno non è che si gonfia a causa dell'adulazione o della piaggeria altrui, dando luogo a degli atteggiamenti veramente ridicoli. Io sinceramente, quando vedo uno di questi palloni gonfiati anche tra i personaggi pubblici, e quando vedo anche i servetti, gli schiavetti, perdonatemi questi termini un po', forse un po' dispregiativi, però proprio mi danno proprio fastidio alcune cose, si prova profonda compassione. Ancora di più se ne prova quando il soggetto del gonfiaggio, perdonatemi l'espressione, non è un'altra persona, quindi un adulatore e un portaborse che ti sta intorno, ma sei tu stesso. Quindi è il cosiddetto peccato di millanteria. Ne abbiamo già parlato in qualche altra circostanza, se non ricordo male. Fattispecie conosciuta anche dal codice penale, perché in alcune circostanze può diventare reato molto grave, no? Penso che abbiate sentito parlare, vedendo in giro telegiornale, eccetera, del cosiddetto millantato credito. Il millantato credito, per esempio, mi ricordo, faccio qualche caso di cronaca recente, un annetto fa sentii al telegiornale che c'era uno che si spacciava per dentista, ma il dentista non era, aveva fatto uno studio, degli studi da odontotecnico, quindi poteva lavorare in laboratorio per fare qualche protesi dentaria, ma non certamente avere la competenza di un dentista, meno che mai per andare, come si dice in termini tecnici, a mettere, le mani in bocca alla gente. È un reato di millantato credito, quello non è dentista e si è spacciato agli occhi delle persone, quindi simulando falsi titoli, per quello che non era. La millanteria consiste ogni volta che uno non soltanto si vanta, ma si attribuisce a sé meriti, virtù o titoli che non ha mai posseduto, che non ha mai avuto. Quindi mancando in questo modo alla verità, anche questa è una figura molto molto molto meschina, molto molto ridicola se uno la considera considera con attenzione. Non si sa veramente se biasimare o compatire dal più profondo del cuore con chi si macchia di queste piccinerie. Diciamo così, è una cosa molto molto brutta. Ecco, anche qui io riporto la regola cara a molti maestri di spirito, no? Di noi stessi meno parliamo e meglio è, questa è la regola, perché non neanche a parlare di noi stessi per andarci a attribuire fango, a dire quanto sono peccatore, anche lasciamo stare, d'accordo? La cosa migliore sarebbe che la nostra persona fosse oggetto di nessun tipo di discorso, né da parte di noi stessi né da parte degli altri. Ecco, e che noi sempre con estrema umiltà cercassimo semplicemente di fare un pochino di bene senza stare a mettere troppe matite rosse o blu sotto quello che facciamo e senza cercare di apparire a guai a noi più grandi di quello che siamo, no? Ecco, anche sotto questo punto di vista io vorrei, dal momento che spesso mi arrivano attraverso internet richieste, segnalazioni varie, ci sono molte persone che mi chiedono se possono, come dire, far rimbalzare come dire, il mio materiale che si trova in giro online sui miei canali, eccetera. Io rispondo sempre, lo dico anche in diretta via radio. Se qualcuno pensa che ci sia qualcosa di buono in qualcosa del materiale che mi riguardi, ne faccia l'uso che vuole, lo metta tranquillamente in giro senza bisogno di fare nessun tipo di nome, cioè non c'è bisogno di scrivere il nome, il cognome di chi ha fatto questa cosa, perché non serve. Se quella cosa può fare del bene, il bene è fatto oggettivo e non serve che sia necessariamente, come dire, messo in risalto l'autore di questo bene, non serve. Non serve perché qualora, ripeto, ci si fosse, questo teniamolo sempre come regola per tutti. È sempre cosa che viene dall'alto, quindi ne ringraziamo il Signore e pace, il resto lo mettiamo tutto quanto nelle mani della misericordia di Dio. Quindi alla larga anche da quest'altra brutta mancanza alla verità. L'ultima è la violazione dei segreti. Qui bisognerà che mi consentiate di starci qualche istante in più, perché anche questa fattispecie è una gravissima fattispecie da codice penale per i reati, tra l'altro, e per i segreti professionali. Ed è da codice penale canonico, per esempio, per i confessori. E qui adesso spenderò poi qualche piccola parola, perché soprattutto riguardo la violazione del segreto confessionale. A violare un segreto, allora, ci sono vari livelli, no? Ci sono i cosiddetti segreti professionali. Io l'ho già accennato quando parlavamo del mentire. Pensate chi fa l'avvocato, pensate chi fa lo psicologo, pensate chi fa il medico. Cioè, allora, tutte queste categorie di persone non possono per nessun motivo parlare con nessuno delle informazioni che hanno acquisito in ordine all'esercizio della loro attività professionale. E come vi accennavo già a suo tempo, qualora qualcuno, come dire, indelicatamente, invadentemente, imprudentemente e inopportunamente andasse a curiosare facendo domande dirette, non si mente quando si risponde io non so niente. Chiaramente avendo come riserva mentale la verità, cioè che noi, se abbiamo un segreto professionale, non sappiamo niente per gli altri, perché quel segreto professionale, diciamo, l'ambito di conoscenza in cui può essere esercitato è tra me e colui che me l'ha confidato. Per il resto questa cosa non esiste, d'accordo? Quindi non si mente in questo caso dicendo non so niente. E la stessa cosa vale quando noi riceviamo in confidenza un segreto. Se una persona mi confida un segreto, io non devo rivelarlo per nessun motivo, per nessuno. E se ci dovessero essere delle circostanze gravissime, devo chiedere l'autorizzazione del diretto interessato, se mi è stata affidata una cosa sotto pena di segreto, altrimenti io rivelandolo faccio cosa gravissima. Ripeto, non si mente, per questo che bisogna considerare questa materia come ultima parte dell'ottavo comandamento, qualora per dire, qualora per tutelare questa cosa io dicessi non so niente. Perché se una cosa è stata posta sotto il sigillo del segreto, ancora di più se fosse stata posta sotto il sigillo del segreto con giuramento, si può tranquillamente dire alle persone io non lo so. D'accordo? Detto questo, un po' per la tranquillità degli ascoltatori e per comprendere anche la grandezza della confessione, un po' perché penso che tutti dobbiamo fare, specialmente di questi tempi, di grandi chiacchierate, forti attenzioni, vi dico come funziona la disciplina della confessione, perché la confessione è ultra blindata, ultra blindata. Allora, è tutto blindato quello che viene in confessionale. Allora, se un sacerdote si azzardasse a violare direttamente il sigillo sacramentale, così si chiama il segreto confessionale, per lui la sanzione è l'immediata scomunica late sentenziae. Vuol dire questo, late sentenziae, che appena compie questa azione, cioè se io dico Tizio ha confessato questo peccato, sono immediatamente scomunicato. Quella scomunica può essere rimessa soltanto dal Papa, quindi riservata alla Santa Sede, e ordinariamente, commettere un fatto di questo genere comporta l'immediata decadenza dalla facoltà di confessare, cosa che può restituirla poi soltanto il Papa, ma dopo congrua penitenza che il sacerdote che ha fatto questa follia faccia. La violazione del sigillo può essere indiretta. Quindi quando non faccio nome del penitente e peccato, ma quando imprudentemente oppure dolosamente fornisco degli indizi tali che una persona intelligente potrebbe arrivare ad individuare penitente e peccato. Quindi queste sono le due fattispecie un pochino più evidenti. Però non finisce qui, perché coperto dal sigillo sacramentale non soltanto la materia morale in senso stretto, ma anche tutto ciò che nella confessione è stato detto, di cui né il sacerdote né il penitente può parlarne in giro, nessuno. Allora, vi faccio un esempio, no? Supponiamo che a me in confessione mi venga un penitente a dire un peccato di un altro sacerdote, magari un peccato grave e un peccato pubblico. Io non posso, sulla base di quella confessione, non posso, sotto pena di peccato grave, andare dal vescovo e dirgli: guarda che mi hanno detto in confessione che Don X ha fatto questo peccato. Non lo posso fare. Quello che posso dire è al penitente: se sei certo da un punto di vista oggettivo che è successa questa cosa, ed è una cosa realmente grave, un pubblico scandalo, tu sei obbligato moralmente a riferirlo all'autorità ecclesiastica. Ma non posso dire nulla di più di questo. Se il penitente vuole che intervenga io, deve ridire tutte le cose che ha detto in confessione di sua spontanea volontà, perché io non posso sollecitarlo, terminata la confessione, fuori dalla confessione e chiedermi di intervenire. Quindi capite come funziona. E qui io devo anche dire un'altra cosa ai fedeli, perché i fedeli che vanno gironzolando in giro, raccontando le confessioni, specialmente quando può succedere che fanno una confessione poco gradevole e la vanno a sbandierare in giro, commettono un peccato gravissimo. Perché? Per un motivo molto semplice, perché supponiamo che quella cosa, ammesso e non concesso che fosse vera, il sacerdote che dovesse poi Dio non voglia venire coinvolto anche in un'indagine, non lo so, canonica o anche civile, qualora si mettessero in giro delle cose gravissime, se quell'insieme delle cose fossero false, non potrebbe difendersi, perché lui non può riferire, cioè non può per difendersi fare riferimento alle cose che ha, cioè al fatto della confessione, quella confessione è come se non l'avesse mai fatta. Quindi non può fare niente. L'unica cosa che può dire è: se volete credere a questa persona, credetegli, se non volete chiedergli, non credetegli. Punto. Non può dire nient'altro. Quindi, attenti perché non si fanno soltanto dei grandi danni al penitente, o perché io dico, ma santo cielo, no? Se io faccio una cosa del genere, la Chiesa giustamente mi scomunica la sentenza e tutti i fedeli che vanno in giro gettando fango ai preti perché non gli è piaciuta la confessione, a questi non succede niente. Quindi bisogna fare attenzione, bisogna fare, ecco. E bisogna anche fare attenzione, e io su questo sono molto, e qui anche i miei confratelli, se ce ne fosse qualcuno all'ascolto, potrebbero e dovrebbero anche arginare un pochino il fenomeno, perché se a me viene una persona a riferirmi delle cose cattive di un altro confratello, anche ascoltato in confessione, io non mi metto a cavalcare subito il cavallo cioè, bisogna. Un punto primo bisogna dire, vabbè, cioè, figlio mio, sei sicuro che le cose sono andate così? Sei sicuro di aver capito bene? Sei sicuro di esserti spiegato bene? Sei sicuro che il sacerdote ha capito bene il tuo problema e quindi si è espresso bene? Sei sicuro che non stavi in un momento che non ci stava magari con la testa? È la prima cosa da fare, non venire a parlare con me, vanno a parlare con lui di questa situazione, no? Torna, ti confessi un'altra volta, gli spieghi tutte quante le cose. E ti informi se è vero che ha detto quella cosa, che ha detto quell'altra cosa, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. E dopodiché è inutile che vieni a dire a me, se ci sono delle cose gravi, oggettive, lo vai a dire eventualmente alle autorità superiori. Punto. Ecco. Quindi attenzione, ecco, perché la materia delle confessioni è materia gravissima, issima e delicatissima. Ecco, però, adesso non voglio spezzare una lancia per la mia categoria, non è gravissima soltanto per chi li ascolta, è gravissima anche per chi le confessioni le fa e poi, ripeto, imprudentemente va gironzolando in giro, parlando e sparlando e quindi mettendo poi in cattiva luce magari un sacerdote. Pugnalandolo alle spalle, perché questo, ripeto, se si tratta di cose uscite in confessione, è nell'impossibilità oggettiva di difendersi. E quindi, capite, insomma, quali possono essere le conseguenze di queste cose davanti al Padre Eterno. Io metterei punto a questo punto, scusate la ripetizione, punto a questo punto. Alla tematica dell'ottavo comandamento e nella seconda parte, ecco, della conversazione di oggi aprirei la materia del nono comandamento. Il nono comandamento che nella formulazione originaria, mantenuta anche nel catechismo della Chiesa Cattolica, si esprime con non desiderare la donna d'altri. Quindi, diciamo subito a titolo introduttivo che il nono comandamento, così come il decimo, sono entrambi correlati con il sesto e con il settimo comandamento. Solo che mentre il sesto e il settimo comandamento proibiscono gli atti, ecco, non commettere atti impuri, non rubare, quindi compiere il gesto dell'appropriazione indebita dei beni di proprietà altrui, il nono e il decimo proibiscono i desideri, non desiderare la donna d'altri, non desiderare la roba d'altri. Cosa significa questo? Ecco, significa, a titolo introduttorio, due cose. Primo, che si possono commettere peccati gravi anche con il pensiero, quando questi desideri, come vedremo, sono consentiti con un atto libero della volontà. Cioè non basta che a uno venga un desiderio passeggero per peccare mortalmente. Occorre che si tratti di un desiderio consentito e coltivato. Quindi, prima cosa, si può peccare con il pensiero e quindi si possono fare dei peccati mortali con il pensiero, perché vedremo che alcuni peccati contro questi comandamenti sono peccati mortali, non lievi. Per questo che quando diciamo il confitero, diciamo, confesso a Dio Onnipotente che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Tenete presente che una coscienza delicata, quindi ben formata, è quella che impara a fare l'esame di coscienza non soltanto sulle parole e sulle opere, già cosa che sarebbe tanto, perché ma anche sui peccati di pensiero e sui peccati di omissione, quindi le cose che si devono fare e che non si fanno, oppure le cose che si sono fatte ma si sono fatte male, o le cose che si sono fatte ma si potevano fare meglio. Quindi, primo. Secondo è che la materia della purezza, quindi ciò che è noto in ascetica come il vizio capitale della lussuria e quello dei soldi che può dare al vizio capitale che può dar luogo al vizio capitale dell'avarizia, sono due, come dire, argomenti così radicati nel cuore dell'uomo e così delicati che per vincerli, quindi per strappare le radici balorde, non basta concentrarsi sugli atti e quindi evitare di compierli, ma bisogna affondare il bisturi dentro il cuore, cioè andare a togliere le male radici dei pensieri e dei desideri consentiti. Altrimenti, ecco, questo perché dobbiamo essere assolutamente convinti di questo, eh? San Paolo scrive, lo vediamo nel decimo comandamento, che l'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali. E San Giovanni parla della concupiscenza degli occhi, concupiscenza della carne e poi superbia della vita, come i tre tarli che corrodono il cuore dell'uomo, come dire, nella sua condizione di figlio di Adamo e quindi nello stato di umanità decaduta. Quindi dobbiamo essere anzitutto, come dire, fermamente formati e istruiti e consapevoli, stiamo dinanzi a due bestie terribili. Quindi la lussuria e l'avarizia sono due mostri che purtroppo nel nostro cuore ci sono. Io dico sempre: guai a chi pensa, guai a chi pensa, non lo posso pensare neanche io di me stesso, e nessuno lo deve pensare di se stesso, di non essere attaccato ai soldi. Guai, perché appena uno pensa di fare questo, cessa di compiere le mortificazioni necessaria per conservare il distacco del cuore dai soldi e quindi automaticamente ricade nell'avarizia. E guai a chi pensa di essere esente dalla concupiscenza. Non lo è nessuno, e ragazzi e ragazze carissimi, per questo che anche il rapporto che uno ha con le persone consacrate deve essere sempre un po' prudente. Quindi anche a livelli di contatti fisici, anche innocenti, cioè, è vero che, come dire, l'affetto che si può provare verso un consacrato o una consacrata, generalmente, a meno che non ci sia una persona, insomma, cattiva e poi corrotta, è animato, cioè è un affetto puro, d'accordo? Quindi è un bene onesto, un bene santo. Però purtroppo bisogna fare attenzione ai gesti di trasmissione. Perché anche se uno è puro nelle intenzioni, il nostro corpo e i nostri istinti sono svalvolati, sono sregolati, ecco. E lo rimangono di tutti, capite? Quindi, cioè, se magari non lo so, una adolescente vuole tanto bene al proprio parroco, ma un bene magari santo, perché quel parroco l'ha aiutato, eccetera, eccetera, e magari è presa dal desiderio di abbracciarlo, di dargli un bacetto, deve stare attenta, deve stare, perché un gesto di questo genere, fatto in maniera, come dire, incauta o improvvisa, potrebbe essere pericoloso. Anche se quel sacerdote è santo, perché quel sacerdote è santo, ma purtroppo, fino a quando sta in questo mondo, dovrà anche lui combattere con l'essere figlio di Adamo. Non, spero di essere stato chiaro. E di non aver chiaramente scandalizzato nessuno, perché purtroppo la condizione nostra terrena, misera, è così. E questo giustifica anche alcune considerazioni che adesso andremo a cominciare a fare a proposito del nono comandamento. Facciamo una piccola pausa con la recita dell'Ave Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Allora, Dette queste prime considerazioni introduttorie, cominciamo ad affrontare il nono comandamento. Allora, i desideri nascono, come dicevano già i filosofi pagani, da che cosa? Da quello che noi guardiamo, cioè dagli occhi. Gli occhi sono una materia molto molto delicata, perché noi, ripeto, attraverso quello che guardiamo, alimentiamo la nostra immaginazione, la nostra memoria, la nostra fantasia ed anche i nostri desideri. Ricordo anzitutto alcuni passi, del Vangelo dove nostro Signore ammonisce sulla vigilanza che noi dobbiamo conservare non soltanto sui nostri occhi, ma anche sui nostri, scusate, non soltanto sui nostri atti, ma anche sui nostri occhi, cominciando da un passo del Vangelo secondo San Marco. Polemica contro i farisei, celebre episodio dove lo accusavano che stava cominciando a mangiare senza lavarsi le mani, e Gesù afferma, perentoriamente, tra l'altro, dal di dentro, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive. Cattive. Vedete, dal cuore degli uomini escono le intenzioni cattive. Fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia e stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono dal di dentro e contaminano l'uomo. E altrove, in un altro noto passo, afferma che fonte di alimentazione, diciamo così, dei cattivi pensieri sono gli occhi. Dice San Luca, capitolo 11, versetti 34 e 35: la lucerna del tuo corpo è l'occhio. Se il tuo occhio è sano, vedete, anche il tuo corpo è tutto nella luce. Ma se è malato, anche il tuo corpo è nelle tenebre. Bada dunque che la luce che è in te non sia tenebra. Quindi, occhio sano, corpo sano. Occhio malato, corpo malato. Quindi capite che instaura un nesso diretto tra i peccati di occhio e i peccati di carne. E fa anche comprendere come non si giungerà ad una purezza di corpo e di carne senza aver purificato gli occhi. E quindi il cuore nei suoi desideri e nelle sue intenzioni. Ancora, avete inteso che fu detto non commettere adulterio? Io vi dico, chiunque guarda una donna, ecco qua, per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Matteo 5, 27, 28, questa è una parte del celebre discorso della montagna. Oh, non basta guardare una donna per fare un peccato mortale, eh? Ecco, perché altrimenti qui dovremmo assolutamente andare in giro completamente bendati. Perché se uno guarda una donna e ha già commesso peccato mortale, qui siamo loro rovinati. Attenzione che poi la stessa cosa vale se una donna guarda l'uomo, eh? Ecco. Di questi tempi poi, tra l'altro, potrebbero anche aggiungersi, perdonatemi, la gelida ironia, ecco, anche altre fattispecie complementari, diciamo così. Ecco. A buon intenditor, poche parole. Ecco. Cosa significa? Guardo una donna per desiderarla. Ecco il desiderio consentito. Cioè, allo sguardo deve seguire un desiderio consentito, lussurioso. Cioè, dicendolo in termini, come dire, puliti, anche se si dice una cosa non pulita, se uno guarda una donna e dice: bene, questa sera mi piacerebbe molto andarla a visitare nella propria casa e intrattenermi in un santo riposo notturno con lei, sto chiaramente scherzando e giocando sui termini, generalmente questi pensieri affiorano come desiderio consentito in maniera molto molto più diretta e molto più volgare nella mente del peccatore. Ecco, se uno ha vedo una donna e dice: questa sera mi piacerebbe tanto andarla a trovare a casa e dopo una bella cenetta sostare nella sua stanza da letto per fare un buon riposino, capite l'ironia, questo è peccato mortale. Se guardando una donna mi balena un pensiero e dopo io comincio a dire, chiudendo gli occhi, dice, no, fermo, lascia perdere che non è tua moglie, non è roba per te, pensa ad altro, è chiaro che non è stato commesso nessun tipo di peccato. Quindi, e volendo cominciare a focalizzare un po' la problematica, possiamo dire che un desiderio consentito, quindi attenzione, deve essere un desiderio consentito, non un desiderio passeggero, perché un desiderio passeggero è una tentazione. Il demonio continuamente lavora per suscitare in noi desideri balordi, pensieri balordi, immagini balorde, eccetera. Ecco. Ma come diceva il buon Sant'Alfonso Maria de Liguori, non sono peccati gli mali pensieri, lui così si esprimeva, ma i mali consensi. Quindi c'è bisogno di un consenso della volontà, e di cui dobbiamo essere tra l'altro certi. Per poter, insomma, affermare che abbiamo commesso un peccato mortale. Dio ce ne scampi, ovviamente. Quindi deve essere un desiderio consentito. Avente ad oggetto qualunque impurità, quando è consentito ed ha come oggetto una cosa impura, da un corpo nudo a tutti quanti gli atti di cui a suo tempo abbiamo parlato, è un peccato mortale. Quindi, quando ci sono queste due condizioni, ripeto, desiderio consentito, oggetto qualunque forma di impurità. Quindi, alla luce di questa espressione, dobbiamo affermare che su queste materie non basta non fare il male, bisogna anche non desiderare di farlo, tenendo però ben distinta la fattispecie del desiderio consentito dal desiderio non consentito e dal semplice pensiero. Ok? Questo perché un desiderio può sorgere, come accennavo, senza un attivo concorso della volontà. Perché la tentazione è esattamente questo. Noi dobbiamo ricordare che San Tommaso d'Aquino, quando parla del demonio e della tentazione dell'azione ordinaria, afferma che il demonio non può muovere la nostra volontà. Per questo che si tratta di questo. Se la nostra volontà acconsente ad una tentazione, è colpa nostra. Però il demonio può, uno, suscita, allora lui fa, ordinariamente fa questa cosa: o usa gli occhi, quindi per farceli, perché attraverso quelli che guardiamo lui fomenti un desiderio, un pensiero cattivo, o usa la nostra memoria, quindi va a pescare nel torbido che c'è stato nel nostro passato per risbattercelo alla nostra attività cosciente, oppure, e questo lo può fare sia di giorno che anche di notte durante i sogni, per questo che delle volte facciamo dei sogni balordi, può formare e creare delle immagini sempre da rappresentare alla nostra mente, immagini ovviamente balorde. D'accordo? Ecco. Però, fino a quando queste immagini rimangono a livello di immagine, a livello di desideri sorti senza consenso della volontà, possono essere sempre controllati e repressi dalla nostra libera volontà. Quindi è sempre per noi possibile non peccare, quando anche la tentazione fosse molto violenta e molto veemente. Ora, abbiamo già accennato riguardo il sesto comandamento, che è ovvio che se uno dice non desiderare la donna da altri, e se oggetto sufficiente per compiere un peccato mortale è già, come dire, un corpo nudo, ecco, perché un corpo nudo è ovviamente atto a provocare chissà che cosa, noi ci troviamo all'interno di un contesto culturale proprio depravato e balordo, ne abbiamo già parlato a suo tempo nel sesto comandamento, dove sono diffuse le cosiddette mode invereconde e la pornografia. E questa è una materia, ho già detto, contro cui tutti i cattolici e le cattoliche degne di questo nome, devono intraprendere una vera e propria, a mio parere, guerra senza frontiere, con gesti anche forti ed eloquenti, che rovescino nuovamente, come accadde ai tempi della diffusione del cristianesimo nell'impero romano, il dilagare dell'immodestia, dell'impudicizia e proprio dell'inqualificabile retamaio della pornografia. Noi dobbiamo pensare, ragazzi e ragazze in ascolto, che è stata proprio la castità, la purezza e il pudore, la verecondia, uno dei fattori che ha fatto trionfare il cristianesimo sull'impero romano. Sull'impero romano. Se uno si va a leggere gli atti delle prime martiri bambine di 12 anni e vede che cosa gli facevano fare i romani, io li ho letti. Sapete qual era un bruttissimo martirio? Prendevano queste ragazzine appena nell'età pubere, quindi con dei corpi, diciamo, appena, come dire, appena formati, quindi nel pieno proprio del fiore, le spogliavano completamente nude, le legavano dentro l'arena dei circhi, non mi ricordo, adesso non mi ricordo se sia un palo o qualcosa del genere, e poi, completamente nude, le mettevano una bella coroncina in testa e poi gli mandavano addosso dei serpenti. Loro mimavano, perché i pagani erano terribili, avevano saputo alcune cose, e le chiamavano il gioco dell'Eden, del racconto della creazione. C'è il serpente che ha tentato la donna, poi la Genesi dice che Adamo ed Eva prima del peccato originale erano nudi, e che quindi esponevano queste ragazzine alla pubblica, come dire, ai pubblici occhi famelici e avidi di pagani, attraverso la tortura dell'essere poi aggredite dai serpenti. E qualche racconto narra che quando qualcuna di queste tornava perché magari non era stata strangolata dal boa o non era stata morsicata dal serpente a sonaglio da chi per lui, piangevano come agnellini queste fanciulle, non per la paura e per lo schifo dei serpenti o per aver sentito le spire addosso, ma perché temevano, ecco, di aver perduto con la pubblica esposizione così in vereconda il fiore e il germe della purezza e della verginità, tanto caro al nostro Signore. Questo era il loro timore. E io sono di latino, ho detto tante volte che sono tanto devoto di Santa Maria Goretti, di questa grande fanciulla, che tutti sanno che è morta ammazzata per non, tutti spero qua, spero che lo sappiano, per non cedere ad un peccato grave contro la purezza. Ma non tutti sanno che sotto la barbarie di 14 coltellate la bambina è stata attenta a fare in modo che non gli si scoprissero le gambe, quindi che la gonna rimanesse bassa e non a pararsi dalle coltellate del suo aggressore. Questo sono i figli di Dio. Attenzione, vivere questa forma di verecondia e di modestia non vuol dire, cominciamo subito a mettere un pochino di mani avanti, che non lo so, le donne cristiane devono andare in giro col burka, oppure assumere dei comportamenti o delle forme anche esteriori così mortificate, l'ho detto anche tante altre volte, tale da sembrare una sorta di suore fuori convento. Assolutamente. Il Signore vuole, ed è proprio dei figli di Dio, che noi curiamo un grande decoro e decenza esteriore, un bel decoro e decenza esteriore. Io invito sempre tutti, l'ho fatto altre volte, se lo frega anzi direte un buon consiglio, vi prego andate su Facebook a visitare una pagina di cui mi hanno nominato a mia insaputa, amministratore, che si chiama Femminina, Modesta ed Elegante, e andate a vedere come si vestono le figlie di Dio. Si vestono in maniera stupenda, sono belle, ecco, sono veramente da sposare, bellissime, curate, con i capelli ben portati, mossi, lunghi, con un po', come dire, anche di cosmetici saggiamente usati, che non sono assolutamente proibiti. Ecco, però senza mai indulgere alla volgarità o alla provocazione, in base al fatto che il corpo esposto è una provocazione. D'accordo? Come diceva Padre Pio, tu esponi il tuo corpo sicuramente degli uomini peccheranno e tu sei l'occasione prossima di peccato per loro. E quindi il Signore chiamerà te a rispondere come complice dei peccati che hanno commesso gli uomini. Capisci? Allora, premetto anche che nell'attuale contesto, qui vale anche per il sottoscritto, ci vuole un grande tatto e una grande carità anche col trattare con tante povere figlie che in maniera completamente ignara, semplicemente seguendo il costume generalizzato oggi, si conciano come una specie di demoni ambulanti, ma non lo sanno. Perché non si rendono conto della gravità di questo fatto. Io vi posso dire che anch'io ho dovuto reinteriorizzare tante cose, no? Vi faccio una confessione. Io sono figlio di questo tempo e non sono cresciuto in ambienti, come dire, tipo convento o tipo monastero. Quindi io avevo i miei amici, avevo la mia vita, avevo il mio gruppo di ragazzi, andavo al mare, facevo qualunque di queste cose, frequentavo i locali, non so, andavo al bar, andavo al pub, cioè tutte le cose, quindi ero completamente dentro. Quindi il mio tasso, diciamo così, di percezione dell'impurità, come dire, cioè, perdonatemi, cioè, io dicevo che una donna era impura, per esempio, se al mare andava in topless. Vabbè, quello è ovvio che. Però se una donna andava al mare col costumino risicatino così e colà, basta che sono coperte le parti intime e che porta il pezzo superiore del bikini, per me non c'era niente di male. Anche i primi tempi che ero sacerdote, questo non. Sapete che è qualche tempo che comincia ad andare di moda le maglie smanicate oppure le maglie per le giovanotti con la panza di fuori, insomma, i pantaloni ultra attillatissimi, eccetera, eccetera. Sì, guardando, insomma, mi sembrava che non fosse il massimo, ma non avevo ancora, come dire, percepito, come dire, la serietà e quanto queste cose dispiacciono al nostro Signore, no? Anche perché non avevo ancora approfondito bene l'argomento, non avevo approfondito bene il messaggio della Madonna di Fatima, insomma, che su questo argomento, come dire, dà delle indicazioni molto molto chiare, molto molto ferree, no? Quindi da un lato dobbiamo essere fermi e forti, dal lato nel portare avanti questa sana e santa battaglia dobbiamo avere molto, mo, molto, come dire, molta compassione verso le persone che hanno bisogno di reinteriorizzare, di riscoprire, cioè le donne devono riscoprire la bellezza e la santità secondo Dio, e devono avere come modello, a mio modestissimo parere, chi? La Madonna, chiunque la vista, dice che la Madonna era di una bellezza assoluta, straordinaria, d'accordo? Ma la bellezza della Madonna non è una bellezza provocante. Quindi io vorrei tantissimo che le figlie di Dio, perché le donne sono una cosa meravigliosa, se riscoprono la bellezza che hanno e anche il ruolo insostituibile che hanno, è assolutamente fondamentale che abbiano come modello la Madonna. E anche quelle che vivono nel mondo, che desiderano sposarsi e che quindi vivranno santamente l'amore anche nella sua dimensione corporea con il proprio sposo, possono e devono avere uno stile che, fermo restando anche, come dire, il lecito godimento della bellezza anche umana dell'amore con il proprio sposo, lo custodisca però, cioè nel senso che io, come dico sempre a giovanotti, dico: guarda che il tuo corpo è stato fatto per tuo marito, se ti devi sposare, e per nessuno se il Signore lo vuole per sé. Quindi lo donerai al tuo sposo, o lo donerai a chi è umano o divino. Per tutti gli altri esseri umani del pianeta Terra, il tuo corpo deve essere mistero, d'accordo? Mistero, sconosciuto. Ecco, basterebbe che noi avessimo questa, sapendo che, se uno, cioè non ve lo dico, cioè Vi prego, andate a leggere i testi del Nuovo Testamento, ne abbiamo già letti tanti anticamente, andate a leggere le testimonianze di padri, di dottori, di scrittori, nonché gli atti dei martiri dei primi cristiani, e vedrete come su questa materia il tasso era altissimo, ecco, di attenzione. Allora oggi si dice sempre primi cristiani, primi cristiani, primi cristiani, ecco. Allora, io ho postato in giro, ho trovato qualche tempo fa, ho fatto delle indagini, e si trova comunque in giro in rete, un esorcismo, quindi che è molto diffuso, di padre Heinrich Kreutzer, del 21 febbraio del 1984, dove Beelzebul, questo è il demone che parla, fa, come dire, una requisitoria sotto imposizione di verità da parte dell'esorcismo, scusate, dell'esorcista, circa la gravità dei peccati connessi all'immodestia, quindi all'ostentazione gratuita e provocante da parte di a volte ignare, lo dice lui stesso, donne che causano dei guai enormi e che danno un enorme aiuto alla causa del demonio, che come abbiamo visto a suo tempo è, come dire, il fomentatore per antonomasia, anzitutto, anche se non solo, dei peccati impuri. Io vorrei chiudere la conversazione di oggi, dato che vedo che manca qualche minuto, leggendovi uno stralcio di questo testo. Allora, il testo dice così: quante donne oggi, per la superbia della carne, mostrano in maniera provocante il loro corpo, senza pudore, senza disagio, con la più grande naturalezza, fingendo di non rendersi conto che stanno provocando scandalo a tante persone e favorendo così la propria e l'altrui rovina eterna. Quanti e quanti uomini, infatti, attenzione, e quanti bambini sono portati a guardarle con malizia. Io vorrei che qualcuno mi spiegasse perché un bambino, perché oggi anche in televisione si fanno le pubblicità, a 4-5 anni, se è finito il telegiornale e devono vedere, non lo so, il film di Bud Spencer alle 8 e mezza, deve vedersi certe pubblicità. Io la televisione non la guardo mai, è rarissimo che mi capita di imbattermici, ma quando qualche rara volta vedo alcune cose, e non voglio fare il puritano, ma dico, ma se io fossi un padre di famiglia, se fossi mio figlio vicino, che cosa bisogna fare? Bisogna forza chiudere la televisione, ma bastasse quello, cioè. E mio figlio al mare l'estate come ce lo porto? Che il mare fa tanto male, bene ai bambini. Che faccio? Lo devo bendare, devo dirgli che andiamo al mare a giocare a mosca cieca? Ma perché devono accadere queste cose? Perché si è giunti, diciamo, tale, insomma, è tanto un bambino, cioè far perdere l'innocenza e la purezza a un bambino di 5 anni, andando a stimolare già a quell'età così tenera istinti e idee morbose. Ma possibile che uno non lo capisce? Cioè, fate qualche telefonata, ditemi se. Perché dopo me, intanto qualcuno dice: ma tu sei esagerato, ma queste mi sembrano delle cose non boh, talmente ovvie, insomma, talmente evidenti. Continua questo mambrucco qui del piano di sotto: guai a chi pecca e fa peccare in questo modo. Sono costretto a dire che una donna che non è vestita correttamente, vedete come dice, talvolta pecca senza esserne pienamente consapevole. Vedete come anche Satanasso dice le sacrosante verità. Ma non per questo è senza colpa, continua, perché genitori, sacerdoti, educatori, almeno qualche volta le hanno parlato del pudore. E se anche proprio non fosse stata educata in questo senso, glielo grida la sua coscienza, che un certo abbigliamento diventa provocazione e tentazione per chi la vede così poco vestita. Io non sono una donna. Vorrei tanto entrare però nel cuore di tante donne, anche di quelle che magari hanno mancato un pochino in questo modo, perché io posso dire alcune cose di me. Nel senso che quando anche in passato ho commesso alcuni peccati autogiustificandomeli, io me li autogiustificavo, perché li volevo e dicevo: ma non c'è niente di male. Però Posso testimoniare che nel profondo della coscienza il campanello che mi diceva questo non si deve fare suonava. Io vorrei sapere, mi piacerebbe tantissimo, non sono una donna, in sincerità, se le donne che hanno mancato in questo modo, pur senza esserne pienamente consapevoli, dentro il cuore c'avevano questo campanellino che gli suona. A detta di Belzebul, sì, la coscienza in qualche modo grida, se uno esagera un po'. Continuo. E così, quando si ostina a ignorare questo, induce molti uomini e molti bambini e giovani a pensieri peccaminosi, li rende facilmente vittime della passione e li porta a peccare gravemente. Scusate, io a volte, questa è una catechesi giovanile, quindi. Io ho qualche mia figlia che gli voglio un bene dell'anima, alle mie figlie e ai miei ragazzi, gli ho detto, dico, scusa, ma tu saresti contenta di essere, perdonatemi, no? Oggetto di un pensiero, cioè che ti vede un giovanotto e poi torna a casa e commette gli atti impuri pensando a te? Cioè, ti gratifica una cosa di questo genere? Saresti contenta, ti sentiresti importante, ti sentiresti desiderata, ti piace una cosa, un pensiero del genere? A volte per far riflettere un po' bisogna anche, ecco, l'alta, così la chiama lui, parla della Madonna, a Fatima ha raccomandato, vestitevi decentemente e imparate da me. Dice, ma ora basta, non voglio parlare. Poi dinanzi all'incalzare dell'esorcista che gli ordina in nome di Dio di continuare a parlare dicendo solo la verità, il demonio, che appunto dice di essere Belzebul, prosegue, davanti a Dio l'umiltà è il più bello ornamento. Questo l'ha detto l'alta. Lei disse anche, ne parlammo a suo tempo, molti vanno all'inferno per il peccato di impurità. State attenti, vedete i peccati di pensiero. La donna pecca non solo quando si scopre in modo sconveniente, ma fin da quando nella sua mente si propone di fare questo. Il volersi affermare non tanto con la bellezza dell'anima, cioè con le virtù, ma col fascino del corpo, è già una colpa. Altra cosa che dico sempre alle mie giovanotte e che dico a voi, giovani ascoltatrici. Se tu ti vesti in modo provocante, andate a vedere sul mio canale YouTube, l'ho detto altre volte, il video sull'impurità, c'è una playlist nel mio canale dedicata ai peccati impuri, dove c'è la testimonianza di Jason e Cristalina, di questa coppia americana. Cristalina dice, sorella mia, se tu ti vesti in un certo modo, lo sai il messaggio che stai dando agli uomini? Io questo posso darti un bel corpo da godere. Se poi tu mi consideri una scemetta o una con un cervello di gallina, non mi interessa, ma se tu punti tutto sul fascino esteriore, stai dando questa immagine di te, cioè tu non sei una persona amabile, non sei una persona che ha delle doti intellettuali, che ha una personalità, che ha dei doni, che sei insomma, come dire, attraente e affascinante per la tua personalità umana. No, tu sei soltanto un corpo da far godere. A chi se lo vuole prendere? Ti piace essere considerata così? Ti piace? Quindi il volersi affermare non tanto con la bellezza dell'anima, ma col fascino del corpo, dice Satanasso, è già una colpa. Non va bene. E quanto è diffusa questa colpa e quanto sottovalutata? Quante donne diventano delle tentatrici per l'uomo come lo fu Eva? Io, Belzebù, sono stato costretto a dirvi questo, ma non voglio più parlare. Allora l'esorcista gli ordina perentoriamente di continuare, quindi prosegue. Quante donne di oggi creano danni irreparabili alle anime di molte altre persone? Per cui, se pentendosi in tempo riusciranno a salvarsi, in purgatorio dovranno pagare amaramente questo loro peccato. Mese di novembre, ho parlato del purgatorio qualche giorno fa. Bruceranno in tutte quelle parti del loro corpo che hanno spudoratamente scoperto. I loro torbidi pensieri di oggi e il loro insano e ostinato desiderio di apparire o di provocare daranno vita per loro a un'atroce tortura. Se poi non si convertiranno, bruceranno per sempre all'inferno. La loro pelle grida, non voglio parlare, l'esorcista di nuovo gli impone, la loro pelle si staccherà a brandelli e cadrà. Allora saranno davvero carne nuda, carne sanguinante, se non si saranno pentiti. Pentite amaramente finché erano in tempo e se non avranno espiato per quanto hanno rovinato in altri anni. Questo ve l'ho dovuto dire, ma ora non voglio più parlare. Io metterei punto a questo punto, ancora punto a questo punto, Riprendiamo con il commento a queste considerazioni la prossima settimana. Certamente sono parole forti, le riprenderemo, le decodificheremo, però attenzione a questa materia perché è materia delicata. Vi do appuntamento, se credete, alla prossima settimana e a tutti, Ave Maria.